il collega Giovanni Ferretti, che voi tutti conoscete, che è professore di filosofia teoretica all'Università di Macerata e che è un illustre studioso di Scheler oltre che di Kant, sui quali ha fornito veramente notevoli contributi. Io lo ringrazio per il suo intervento, gli do la parola e gli parlerà sulle tensioni dell'ermeneutica cristologica in Kant. Il mio testo avrà tre parti, una prima alcune considerazioni preliminari, la seconda sarà più direttamente, avrà per argomento più direttamente la figura di Cristo e la terza la figura della redenzione di Cristo. E incomincio subito. In un recente saggio dedicato all'analisi della religione nei limiti della semplice ragione, Porricoeur sostiene che quest'opera, rispetto alle tre critiche, si caratterizza come opera di ermeneutica filosofica della religione. Essa infatti tratta della religione non come oggetto suggellato dalla universalità propria della struttura trascendentale della ragione, bensì come fenomeno storico positivo, da interpretare nel suo significato per la ragione, anche se si pone oltre i confini della ragione come altro dalla ragione. Storico-positivi sono peraltro non solo i tre aspetti sotto cui Kant studia in quest'opera la religione, ossia la rappresentazione, la fede, l'istituzione, studiati rispettivamente nella seconda, terza e quarta parte, ma anche più profondamente sia il primum movens della religione, ossia la situazione di fatto del libero arbitrio segnato dalla schiavitù del male radicale, situazione a proposito della quale si può parlare di storicità esistenziale, studiata nella prima parte, sia i motivi di speranza e una possibile rinascita alla libertà offerti dalla religione, speranza che di fatto è il tema dominante di tutta l'opera, tanto da essere presente in ogni sua parte. Ricordando che secondo Kant l'opera doveva rispondere alla terza domanda del suo progetto filosofico, che cosa posso sperare, Ricoeur ritiene che essa possa quindi essere definita come un saggio di giustificazione filosofica della speranza. Ma tale giustificazione resta di tipo ermeneutico, non critico trascendentale. Si tratta, cito, di un'ermeneutica e non di una critica, perché l'incrociarsi dei segni del male e dei segni della rigenerazione è esso stesso un fenomeno storico di secondo grado che collega la storicità culturale delle religioni positive e la storicità esistenziale della propensione al male. In questa proposta di lettura convergono indubbiamente i principali esiti della critica del Novecento che, superando il modello interpretativo dominante nel secolo scorso, ha visto nella religione non tanto un'applicazione accessoria dei risultati delle tre critiche o una quasi meccanica riduzione razionalistica della religione, tendente a farla scaturire in toto dalla semplice ragione, bensì l'aprirsi di un vero e proprio nuovo campo di indagine, attento alla dimensione storica e comunitaria della religione, e il cui fulcro va individuato proprio nella specifica natura della speranza religiosa, con la sua originale tensione tra immanenza e trascendenza. La speranza religiosa, infatti, se per un verso scaturisce dalle stesse istanze della ragione di fronte alla distretta morale dell'uomo, che deve incondizionatamente fare il bene e non si veda come lo possa fare con le sue forze, data la situazione di radicale corruzione in cui si trova, per altro verso rimanda ad aiuti soprannaturali provenienti dall'esterno, che, diversamente dai tre postulati della ragion pratica, la ragione non riesce in nessun modo a fare propri, né da un punto di vista teoretico, né da un punto di vista pratico, e quindi restano fuori dei suoi limiti, grenze, semplici parerga o accessori della religione entro i limiti della pura ragione, come Kant li chiama, ma che di fatto ritornano sotto vari aspetti come il referente di fondo di tutta l'opera, impedendo che essa si esaurisca nella elaborazione di una religione semplicemente razionale. Merito del saggio di Ricoeur aver ripreso questi elementi ripensandoli alla luce dell'odierna consapevolezza ermeneutica a riguardo dello studio filosofico della religione, il che permette sia di evidenziare in Kant la presenza di un metodo di indagine filosofica non di natura semplicemente trascendentale, ma appunto di natura ermeneutica, sia di mettere in luce la specifica caratteristica di questa ermeneutica filosofica della religione, il cui compito principale sembra consistere, in ultima analisi, proprio nell'esibire e chiarificare la particolare natura della tensione tra immanenza e trascendenza, che si istituisce quando la filosofia prende a studiare la religione. Una tensione paradossale, dato che per un verso la religione sembra riportabile nei confini della ragione, divenendo suo oggetto di analisi trascendentale, e per altro verso essa si pone, come l'altro, dalla ragione, al di là dei suoi confini, e tuttavia da essa ipotizzabile come quella realtà più propria della religione che sola apre l'uomo alla fiduciosa speranza in una possibile liberazione. La tensione di immanenza e trascendenza, proprio dall'ermeneutica filosofica della religione, è acuita peraltro dal fatto che in Kant tale ermeneutica, secondo quanto dovrebbe essere a nostro avviso ogni autentica ermeneutica filosofica, è impegnata non solo con il problema del senso della religione, ma anche con il problema della sua verità. Essa cioè non si limita ad interpretare in senso razionale i contenuti della religione positiva, facendo vedere come essi possono essere in accordo con la ragione, secondo la famosa immagine dei due cerchi o sfere concentrici, nel più piccolo del quale dei quali far entrare quanto di razionale presente nel cristianesimo, bensì è un'ermeneutica critico-militante impegnata a smascherare quanto di contrario alla ragione si trova nelle dottrine e nelle prassi religiose positive. Quanto è contrario alla ragione si pone infatti non solo oltre i suoi confini, i confini del senso, ma anche fuori dell'ambito stesso della verità, e di conseguenza, lungi dal poter essere mezzo di liberazione, come spesso le religioni storiche hanno preteso, diviene espressione di quello stesso male radicale che tiene l'uomo in schiavitù. La tensione di immanenza e trascendenza si incrocia, si potenzia quindi con la tensione tra ammissibile e non ammissibile per la ragione, impegnando il procedimento ermeneutico in una continua vigilanza, per evitare sia di identificare tout court il trascendente con l'inammissibile, finendo così per negare il proprio della religione, sia di accettare passivamente come valido quanto la religione propone come trascendente, per il solo fatto che esso sfugge alle limitate capacità razionali dell'uomo. Una vigilanza che, pur non potendo esibire in positivo, secondo Kant, la verità della religione nelle sue pretese di offerta di un aiuto trascendente, può essere tuttavia in grado di contribuire a purificare la religione storica affinché sia di effettivo aiuto alla speranza di liberazione dell'uomo senza rischiare di accrescerne la corruzione. L'analisi dell'ermeneutica cristologica presente nella religione ci pare possa offrire un esempio privilegiato sia per mettere in luce la particolare ermeneutica filosofica della religione che Kant svolge, sia per rilevare la natura specifica delle tensioni che in essa emergono e che essa cerca di chiarificare. La figura di Cristo, infatti, se per un verso interpretata da Kant come un'idea o un ideale della ragione, riconducibile come tale entro i suoi confini, per altro verso, come giustamente è stato osservato ad esempio da Tiet, esse di fatto il più grandioso dei parerga, ovvero un'idea trascendente a cui la ragione può bensì elevarsi, dato che sta ai suoi confini, ma senza poterla annettere entro i propri confini, ovvero farne una massima per il proprio pensiero o per la propria azione. In questo caso, infatti, lungi dall'essere per l'uomo mezzo di salvezza, essa diverrebbe inevitabilmente mezzo di corruzione. La figura di Cristo risulta quindi come l'altro dalla ragione per eccellenza, ma al tempo stesso una figura da interpretare affinché non risulti distruttiva per la ragione, ma l'aiuti nel suo cammino di liberazione. E passiamo al tema: la figura di Cristo, idea, ideale, esempio storico e la necessità della rappresentazione religiosa. Il momento è che a Cristo logica di Kant ha il suo punto focale nella seconda parte dell'opera, intitolata «Della lotta del buon principio col cattivo per il dominio dell'uomo». Il contesto della trattazione, quello tradizionale nella teologia cristiana, della via per la liberazione dell'uomo dalla schiavitù del male. Al male, inteso da Kant come un particolare principio positivo, cattivo in sé, che si annida nel cuore dell'uomo corrompendo nell'intenzione morale fondamentale, viene contrapposto il principio positivo del bene, buono in sé, che viene rappresentato come una drammatizzazione che molto spesso assume nel linguaggio, con una drammatizzazione che molto assume del linguaggio religioso, come in lotta con un primo per il predominio dell'uomo. Si tratta di una vera e propria lotta, sottolinea Kant, dato che non è sufficiente perché l'uomo possa essere interiormente trasformato una semplice illuminazione dell'intelligenza. La lotta è in vero tra principi che si trovano all'interno stesso dell'uomo, per cui si può pensare che la rappresentazione drammatizzante sia semplicemente un mettere esteriormente in scena quanto si consuma nell'interno dell'uomo. E certamente di questo soprattutto si tratta. Ma con l'avvertenza che, secondo Kant, la rappresentazione in questo caso si rende necessaria, perché l'origine della presenza in noi di entrambi i principi ci rimane concettualmente del tutto incomprensibile, onde il valore altamente significativo dei racconti biblici che ci rappresentano tali principi, trascendenti la nostra capacità di comprensione, come esistenti fuori di noi o provenienti in noi dall'esterno. Della incomprensibilità dell'origine in noi del principio del male, che la Bibbia rappresenta col racconto della seduzione, verführung, da parte di uno spirito cattivo esistente fuori di noi, Kant ha già parlato nella prima parte. Ed è interessante notare come, commentando tale racconto, egli abbia rilevato che in esso, proprio per il fatto che la caduta è presentata come frutto di seduzione e non di corruzione radicale, come il caso del demonio, già si offre un motivo di speranza. E così, cito, è lasciata all'uomo, il quale, nonostante la corruzione del suo cuore, conserva ancora una volontà buona, la speranza di un ritorno al bene dal quale si è allontanato. La cristologia che Kant sviluppa nella seconda parte ha il suo nucleo originario proprio nella tesi della paradossale permanenza nell'uomo radicalmente corrotto dal male, di quel germe di bene o volontà buona, di cui si tratta ora di fare una compiuta ermeneutica, per vedere come da esso possa scaturire la liberazione morale dell'uomo singolo e dell'intera umanità. L'analisi, che esplicitamente si appoggia al racconto religioso, procede per tre tappe successive, che vanno da un massimo di astrazione, l'idea del buon principio, ad una prima concretizzazione o personificazione nella sua rappresentazione ideale, fino al massimo di concretezza che sarebbe nell'esempio dato dalla persona storica di Cristo. L'idea del buon principio, presentata in riferimento al prologo del Vangelo di Giovanni come l'idea del Figlio di Dio che era un Dio da tutta l'eternità e in vista della quale Dio ha creato il mondo, secondo Kant può essere interpretata come l'idea dell'umanità in tutta la sua perfezione morale, comprendente come sua conseguenza anche la felicità. Come tale, essa è l'archetipo dell'intenzione buona. La sua presenza nell'uomo, si diceva nella prima parte, è ciò che costituisce l'uomo come personalità morale originariamente orientata o disposta al bene. Ma già la presenza di questo archetipo nell'uomo è qualcosa per noi di incomprensibile, che richiede, per poter essere espresso in modo più adeguato, che non quello del linguaggio concettuale, la rappresentazione religiosa, in questo caso l'immagine dell'incarnazione. Ma proprio perché, cito, non siamo noi gli autori di questa idea, ma essa ha preso posto nell'uomo senza che noi comprendiamo come la natura umana abbia semplicemente potuto essere capace di riceverla, si può meglio dire che quell'archetipo è disceso fino a noi dal cielo, che ha assunto l'umanità, giacché è meno possibile rappresentarci come l'uomo, per natura cattivo, possa liberarsi da sé, dal male, ed elevarsi sino all'ideale della santità, anziché rappresentarci che questo ideale assuma l'umanità, la quale non è cattiva di per sé, e si abbassi fino ad essa. Dunque, l'immagine religiosa dell'incarnazione, con la tensione caratteristica che implica tra immanenza e trascendenza, sembra più adeguata ad esprimere la realtà dell'ideale etico presente in noi, ma non derivante da noi, che non il pensiero concettuale che deve semplicemente ammetterne l'incomprensibilità. L'immagine dell'incarnazione non è però che un primo elemento del farsi presente come ideale concreto per noi del buon principio. Farci presente come ideale presente in noi del buon principio. Sulla scia della cristologia teologica della lettera ai Filippesi, l'ideale della perfezione morale dell'uomo trova infatti, secondo Kant, concretezza e quindi effettiva forza motivante solo se rappresentato nella figura di un uomo che lotta contro il male affrontando grandi sofferenze, ovvero nella figura di Cristo quale servo sofferente. E cito, l'ideale dell'umanità gradita a Dio, noi non potremmo pensarlo se non mediante l'idea di un uomo che sia pronto non solo ad adempiere tutti i doveri umani e insieme a diffondere intorno a sé, nella massima misura, il bene con la sua dottrina e col suo esempio, ma anche disposto, sebbene tentato dalle più grandi lusinghe, a subire tutti i dolori fino alla morte più ignominiosa, per il bene del mondo e anche per il bene dei suoi nemici. E Kant prosegue, in modo molto significativo per quanto riguarda la necessità della rappresentazione, già che l'uomo non può farsi un concetto del grado e dell'intensità della forza che è propria dell'intenzione morale, se non in quanto egli se la rappresenta in lotta con degli ostacoli e tuttavia vincente nonostante i più grandi combattimenti. L'ermeneutica filosofica di questa rappresentazione cristica dell'ideale morale si fa a questo punto particolarmente accurata. Kant osserva infatti che tale ideale ha in se stesso la sua realtà obiettiva, come la chiama, senza che vi sia bisogno di riferirsi, perché abbia efficacia pratica, ad esempi concreti tratti dall'esperienza, e tanto più senza che vi sia la necessità di pensarlo come un uomo divino di origine soprannaturale. Da un punto di vista pratico, la realtà oggettiva dell'ideale è data infatti dalla sua stessa presenza nell'animo umano e consiste nell'avvertire il dovere di conformarci ad esso. Tra dovere e potere, secondo un principio fondamentale della ragion pratica, c'è infatti stretta corrispondenza. La realtà oggettiva dell'ideale e la conseguente fede pratica di poterci adesso elevare non hanno quindi bisogno di esempi esterni per sorgere e tantomeno di convalide miracolose circa la loro autenticità. Certo, deve essere possibile che si diano esempi di tale ideale, dato che ogni uomo dovrebbe presentarne in se stesso la realizzazione, ma di fatto nessun esempio umano gli potrà mai essere adeguato. Ed anche se si desse una realizzazione storica di tale ideale talmente grande da potersi qualificare come divina, essa dovrebbe pur sempre essere commisurata al modello originario, Urbild, che si trova soltanto nella nostra ragione. Kant non esclude che se un uomo storico concreto presentasse in sé l'esempio dell'ideale morale in forma incomparabilmente grande, tanto da provocare nell'umanità una vera e propria rivoluzione morale, si potrebbe formulare l'ipotesi che tale uomo abbia avuto un'origine soprannaturale. Ma egli ritiene che tale ipotesi, pur non potendo essere esclusa, non sia né necessaria né dimostrabile. Anzi, se dovesse portare all'idea di un uomo divino, dotato di caratteristiche sovrumane, essa sarebbe, da un punto di vista pratico, controproducente. Infatti, cito, tale uomo divino non potrebbe mai esserci presentato come un esempio da imitare, e quindi neanche come una prova della realizzabilità e della raggiungibilità da parte nostra di un bene morale così puro e così sublime. Fin qui il passaggio dall'idea all'ideale all'esempio, pur nel riconoscimento che la tensione tra immanenza e trascendenza che tale passaggio implica sia meglio espressa nella rappresentazione religiosa che nel concetto, si potrebbe dire che è proceduto in qualche modo a priori, ovvero senza la necessità di ricorrere alla testimonianza della storia cristiana. Difatti, però, il metodo seguito non è stato tanto quello trascendentale della ricerca delle condizioni a priori di possibilità della liberazione etica, fosse un oggetto d'esperienza o un fatto della ragione, bensì la costruzione, di tipo ermeneutico, di un primo modello razionale di cristologia, capace di interpretare il senso razionale della speranza cristiana di salvezza. Ed è alla luce di questo modello che ora Kant passa all'esame della storia biblico-cristiana, si potrebbe dire ritorna alla storia con strumenti razionali più affinati per poterla adeguatamente interpretare. L'esame della figura storica di Cristo è svolto nella seconda sezione della seconda parte dell'opera. Indubbiamente l'apparizione storica di Cristo come maestro ed esempio della più alta moralità ha segnato una vera e propria rivoluzione storica in campo etico-religioso, portando in particolare al superamento dell'etica religiosa e legalistico-cultuale giudaica e aprendo la via alla religione razionale pura, incentrata nella conversione del cuore e nella purezza dell'intenzione. La morte ignominiosa di Cristo sulla croce, se per un verso ha potuto apparire come la vittoria su di lui del principio cattivo, per altro verso ha segnato l'inizio di una trasformazione religiosa che ha finito per propagarsi, data l'efficacia universale che essa ha avuto e può tuttora avere. Sul senso esemplare della morte storica di Cristo, Kant si esprime in modo quanto mai netto. Tale morte, egli dice, fu la manifestazione d'Arstellung del buon principio, cioè dell'umanità in tutta la sua perfezione morale, come esempio per la seguela di tutti. La rappresentazione Vorstellung di questa morte dovette avere e poté avere nel suo tempo e può avere anche per tutti i tempi l'influsso più grande sugli animi umani, in quanto fa vedere, nel contrasto più impressionante, la libertà dei figli del cielo e la schiavitù di un semplice figlio della terra. Ma lo schema interpretativo razionale sopra elaborato interviene subito a precisare la portata di questa affermazione, in sé certamente molto forte ed impegnativa in quanto riferita ad un esempio storico concreto. Se nell'uomo storico di Gesù di Nazareth il buon principio è sceso nell'umanità in modo visibile, va ricordato che, cito, sin dall'origine del genere umano il buon principio è sceso dal cielo nell'umanità in maniera invisibile. Per cui, spogliata del suo velo mistico, la rappresentazione vivente che in Cristo si è avuta del buon principio significa essenzialmente, cito, che non c'è assolutamente alcuna salvezza per gli uomini se non nell'accettazione intima di genuini principi morali nella loro intenzione. E, correlativamente, che la perversità del cuore umano non può essere vinta se non mediante l'idea del bene morale nella sua perfetta purezza, accompagnata dalla coscienza che tale idea appartiene realmente alla nostra originaria disposizione morale. Torneremo in seguito su prebende l'apporto tra Cristo e la salvezza. Ci rimane infatti da precisare la portata che Kant attribuisce a ciò che nella sua interpretazione della figura storica di Cristo è qui detto il velo mistico. Si tratta in sostanza degli aspetti miracolosi o soprannaturali della vita di Cristo. Kant non ne nega la possibile realtà storica, per cui pur ritenendo che essa in nessun modo possa essere universalmente dimostrata, ritiene di poca utilità la critica biblica che tale realtà storica si impegna a contestare, o si impegnava a contestare. Sulla scia di Lessing, egli sostiene infatti che tali aspetti possono essere stati dei mezzi ausiliari pedagogicamente necessari per introdurre a suo tempo la vera religione razionale, ma questa, una volta introdotta, può trovare nella ragione stessa il fondamento della sua credibilità, per cui tali mezzi miracolosi diventano del tutto superflui o indifferenti. L'involucro mistico non potrà quindi essere considerato e tantomeno imposto come parte integrante della religione, necessaria a tutti per salvarsi, o addirittura come capace di per se stesso di salvare senza l'impegno etico personale. Nelle osservazioni conclusive della seconda parte, dedicata significativamente ai miracoli quale prove della credibilità della religione cristiana, egli si esprimerà in questi termini. Può darsi che la persona del maestro dell'unica religione, valida per tutti i mondi, sia un mistero, che la sua apparizione sulla terra come il suo allontanamento da essa, che la sua vita ricca di nobili azioni, i suoi dolori siano puri miracoli, e anche che la storia che deve autentificare il racconto di tutti questi miracoli sia a sua volta un miracolo, una rivelazione soprannaturale. Noi possiamo quindi lasciare sussistere il valore di tutti questi miracoli e anche venerare in essi l'involucro di Hull, che è servito a diffondere apertamente una dottrina la cui credibilità si fonda su un documento che è conservato incancellabilmente in ogni anima e non ha bisogno di alcun miracolo. A patto però, per quanto riguarda l'uso di tali narrazioni storiche, di non fare della conoscenza di tali miracoli, della fede in essi e della professione esplicita di questa fede, una parte integrante della religione, una cosa capace di per sé di renderci graditi a Dio. Questo atteggiamento possibilista di Kant nei confronti dell'involucro mistico della vicenda storica di Cristo non significa però che egli si astenga dal valutare criticamente l'interpretazione dogmatica che se ne è fatta, quando egli ritiene che essa sia controproducente rispetto alle finalità etiche della rappresentazione cristica. Così come si è già detto, egli critica la tesi dogmatica della divinità di Cristo, che ne svuoterebbe la portata esemplare per noi. E poi, ad esempio, rileva le difficoltà teoriche di una interpretazione realistica della nascita virginale di Cristo, difficoltà che si supererebbero in una interpretazione puramente simbolica. E per quanto riguarda i racconti della resurrezione e dell'ascensione, che peraltro a suo avviso non fanno più parte della storia pubblica di Cristo, ma solo della sua storia segreta, egli ritiene che non siano utilizzabili per una religione nei limiti della sola ragione. Non tanto perché racconti storici, dato che anche la storia precedente è tale, bensì perché, presi alla lettera, essi porterebbero ad ammettere un concetto assai conforme, cito, certamente al modo di rappresentazione sensibile degli uomini, ma assai gravoso per la ragione nella sua credenza nel futuro, il concetto cioè della materialità di tutti gli esseri nel mondo. Come idea della ragione, tali racconti dovrebbero infatti significare l'inizio di un'altra vita e l'entrata nel regno della felicità, cioè nella comunione di tutti i buoni. Ma una loro interpretazione storico-letterale implicherebbe un materialismo, sia psicologico sia cosmologico, contrario a quello spiritualismo antropologico, decisamente dualistico, che Kant qui sostiene e che lo porta ad affermare che, cito, la ragione non può avere alcun interesse a trascinare nell'eternità un corpo che, se la personalità si fonda sull'identità del corpo, deve sempre, per quanto purificato lo si supponga, essere composto della medesima materia che costituisce la base del nostro organismo. Oltre a quella che potremmo chiamare la precomprensione etica dell'ermeneutica filosofica kantiana, è quindi presente nella sua interpretazione della storia di Cristo anche una ben precisa precomprensione antropologica. Come del resto potrebbe essere messa in luce anche una ben precisa precomprensione teologica nella sua interpretazione del mistero cristiano della Trinità, così strettamente connesso con la problematica cristologica. E passo alla terza parte, Cristo Redentore, il problema della fede salvifica. L'interpretazione della figura di Cristo, della sua vicenda storica, non sarebbe però completa se non si affrontasse il punto fondamentale di tutto il discorso cristologico, ossia del senso dell'apporto di Cristo alla salvezza e del modo con cui esso può divenire nostro. Appellarsi alla figura di Cristo come semplice rappresentazione dell'ideale morale che ogni uomo da sempre porta in se stesso non sembra infatti sufficiente per risolvere il problema del risollevamento dell'uomo dalla sua situazione di libertà schiava del male. Infatti, come Kant aveva rilevato già nella prima parte, cito, «Com'è possibile che un uomo naturalmente cattivo si faccia uomo, buono? Ciò oltrepassa tutte le nostre idee, giacché come può un albero cattivo produrre frutti buoni? E ciò è tanto più vero se si pensa alla profonda rivoluzione nell'intenzione stessa dell'uomo che l'evento della conversione implica e di cui giustamente il cristianesimo parla come di una rinascita o di una nuova creazione», e Kant lo ricorda. Nel paragrafo della seconda parte dedicato alle difficoltà contro la realtà dell'idea di Cristo, quale archetipo dell'umanità gradita a Dio, che sono in fondo difficoltà contro la sufficienza della semplice rappresentazione cristica per la salvezza, il problema viene approfondito analiticamente. Com'è possibile che il rinnovamento dell'intenzione, seppur possibile all'uomo, riesca a far passare dalla situazione di male da cui partiamo col progresso continuo all'infinito che è necessario per raggiungere la santità noi richiesta? Chi ci assicura della perseveranza nella buona intenzione? E ancora, come estinguere il debito contratto con la giustizia divina tramite il male compiuto in passato, se ogni buona azione che possiamo compiere già rientra in ciò che dobbiamo fare per semplice dovere? D'altra parte, come possiamo sperare che Dio ci consideri giusti se ancora non lo siamo? Come fidarci di supposte assicurazioni soprannaturali sulla nostra futura perseveranza quando in gioco la nostra stessa intenzione interiore? E come è possibile ritenere che, cito, la più personale di tutte le obbligazioni, cioè un debito contratto con il peccato, possa essere assolto da un altro al nostro posto, in questo caso dal Figlio di Dio che avrebbe sofferto innocente per noi? Il problema teologico cristiano della giustificazione, fin nella formulazione classica estrema della soddisfazione vicaria, è quindi giudicato da Kant come un problema eminentemente teoretico che una filosofia che voglia impegnarsi sul tema della speranza religiosa non può fare a meno di affrontare. La problematica, di cui si tenta una prima soluzione in questo paragrafo, verrà ripresa nella terza parte, nel contesto dello studio dei rapporti tra fede religiosa pura e fede ecclesiastica. Per fare nostro, infatti, l'aiuto soprannaturale che Dio ci offre in Cristo, è necessaria, secondo la religione cristiana, la fede in Lui, quale Redentore che ha soddisfatto per noi. Il problema teorico del primato della nostra libertà o del primato della grazia nell'opera della salvezza, come pure quello del primato della soddisfazione vicaria o del primato del nostro impegno etico, si intreccia così con quello del primato della fede o delle opere, creando un campo di tensioni quanto mai complesso. La risposta filosofico-razionale che Kant cerca di darvi sarà a sua volta complessa e non priva di forti tensioni. Tentando di sintetizzare la posizione di Kant, ci limitiamo a segnalare i seguenti punti. Primo, ciò che Kant esclude come del tutto contrario alla ragione, quindi inammissibile, è che la salvezza si possa avere per puro e semplice dono della fede da parte di Dio, in seguito ad un suo incondizionato disegno. Ciò infatti costituirebbe, cito, il salto mortale della ragione umana, ovvero oltrepasserebbe di troppo le barriere schranke della nostra ragione, tanto da non poter avere per noi alcun senso. Kant infatti rifiuta come del tutto irragionevole la tesi teologica protestante della sola fide, coniugata con un rigido predestinazionismo teologico. Secondo, da un punto di vista pratico, Kant ritiene che non si debba e possa far altro che partire da ciò che noi dobbiamo fare, cioè dall'impegnarci a mettere in atto l'uso della nostra libertà, mossi dall'idea della perfezione morale che è in noi e da cui promana l'imperativo della conversione. Solo infatti colui che ha cercato di fare tutto ciò che in suo potere può fiduciosamente sperare che Dio completerà con un aiuto speciale la sua manchevolezza. Come noto, Karl Barth avvicinò questa posizione alla dottrina cattolica della giustificazione, che gli ritenne ben espressa nella formula scolastica facenti quod est in sé Deus non denicam gratiam, e che identificò Barth con il pelagianesimo. Il giudizio risulta di fatto esorbitante, non solo per quanto riguarda il cattolicesimo, come Barth stesso ebbe a riconoscere, ma anche per quanto riguarda Kant. La posizione kantiana circa il primato della libertà riguarda infatti la questione della giustificazione non a livello ontologico speculativo, ma solo a livello pratico. E a questo livello Kant ritiene, in gran parte giustamente, che noi non abbiamo alcun altro modo per influire su di un eventuale aiuto soprannaturale di Dio che non sia l'impegnarci liberamente nel bene per quanto ci è possibile. La critica di Kant ad ogni sostituzione dell'impegno nel bene con pratiche di culto o con la pura e semplice fede sembra quindi ampiamente giustificata. Terzo, per quanto riguarda invece il punto di vista teoretico, Kant riconosce anzitutto la portata altamente speculativa del problema. In esso infatti emerge quella che egli chiama una sorprendente, merwürdige, antinomia della ragione umana con se stessa, consistente nella tensione fra la tesi del primato dell'impegno etico, che sembra dimenticare la nostra radicale corruzione, e quella del primato del dono gratuito di Dio, che sembra dimenticare che nessuno può sostituirsi alla nostra libertà. Tra la tesi del primato della fede nella buona condotta, che non spiega sulla buona condotta, che non spiega come possiamo riparare i nostri peccati passati, né come possiamo avere la certezza della perseveranza futura, e la tesi del primato della fede, scusatemi, proprio sbagliato, tra la tesi del primato della fede nella buona condotta, che non spiega come possiamo riparare i nostri peccati passati, né come possiamo avere la certezza della perseveranza futura, e la tesi del primato della fede nella soddisfazione vicaria di Cristo, che non spiega come noi possiamo rendercene degni. Quarto, per quanto riguarda la possibile soluzione dell'antinomia, così ben individuata, Kant rileva che essa risulterebbe del tutto irrisolvibile se si dovesse legare la giustificazione alla fede storico-empirica nella persona di Cristo, sia pure intesa come la manifestazione storica del modello dell'umanità gradita a Dio. In questo caso, infatti, ci troveremmo di fronte a due principi del tutto diversi. L'uno empirico, primato della fede nel Cristo storico e in genere nei mezzi ecclesiastici o istituzionali della salvezza, e l'altro razionale, primato dell'impegno etico. E nessuna ragione sarebbe mai in grado di appianare il conflitto di massime che l'antinomia produrrebbe. E non va dimenticato che nel rilevare l'irrisolvibilità dell'antinomia, se impostata in questi termini, Kant intende esprimere tutta la sua critica allo stretto legame che ha dominato nelle teologie delle varie confessioni cristiane fino ai tempi più recenti tra possibilità di salvezza e fede storico-istituzionale. Un legame che Kant, in ciò d'accordo con il sentimento illuministico più diffuso, si pensi anche soltanto a Lessing e a Rousseau, ha ritenuto decisamente inammissibile dalla ragione. Esso infatti non sarebbe possibile a tutti e quindi costituirebbe una discriminazione ingiusta, incompatibile con la giustizia e la bontà di Dio. Quinto, rifiutando di intendere in tal modo la diversità dei due principi che sono in gioco nell'antinomia, rendendola così irrisolvibile, Kant ritiene che sia possibile superare l'antinomia facendo vedere che, di fatto, i due principi convergono in uno solo e che quindi l'antinomia è soltanto apparente. Cito, nella manifestazione dell'uomo Dio, il vero oggetto della fede santificante non è ciò che di lui colpisce i nostri sensi o che può essere conosciuto mediante l'esperienza, ma l'archetipo, Urbild, presente nella nostra ragione, che noi poniamo fondamento di tale manifestazione. E così tale fede è identica col principio di una condotta di vita gradita a Dio. Soluzione analoga egli aveva peraltro cercato di dare a proposito della soddisfazione vicaria, identificando il figlio di Dio che porta i peccati dell'uomo, in qualità di rappresentante di tutti coloro che credono, con la stessa nuova intenzione morale che emerge in noi, non senza grande sofferenza, nel momento stesso della conversione. In tale intenzione, infatti, Dio vede come unificato sia il nostro passato sia il nostro futuro. E per il merito che con essa ci guadagniamo, egli può, a buon diritto, ritenerci giustificati. Una soluzione, questa, che Kant ritiene, in qualche modo, una vera e propria deduzione dell'idea di una giustificazione dell'uomo, deduzione nel senso kantiano, quindi proprio giustificazione dell'idea di una giustificazione dell'uomo. Quinto ed ultimo punto. È però facile vedere, e a Kant non poteva sfuggire, che se questo è il massimo cui la ragione può giungere nel suo tentativo di giustificare con le proprie forze la speranza religiosa, il risultato che per questa via si ottiene implica di fatto l'abolizione di uno dei due termini del problema, che la ragione stessa aveva riconosciuto, ovvero l'impossibilità per la libertà umana corrotta di convertirsi da sola, donde il risorgere del problema che in Kant sembra infatti trapassare dal piano di una antinomia inaccessibile da smascherare, come apparente, a quello, certo più pertinente, di un paradosso da riconoscere. Così, ad esempio, ritornando sulla problematica del rapporto tra grazia e libertà, nelle osservazioni generali che si trovano in calce alla quarta parte, Kant afferma bensì che noi non possiamo comprendere come sia possibile un influsso soprannaturale di Dio che ci aiuta a compiere tutto il nostro dovere, perché, cito, ciò che ci deve essere attribuito a titolo di buona condotta non deve derivare da un influsso esterno, ma deve essere il risultato del migliore uso possibile delle nostre proprie forze. Ma aggiunge anche, in modo molto significativo, cito, tuttavia neanche si può dimostrare l'impossibilità di questo caso, cioè che entrambi gli agenti coesistano l'uno accanto all'altro, perché la libertà stessa, benché nel suo concetto non sia incluso nulla di soprannaturale, ci resta tuttavia, nella sua possibilità, precisamente così incomprensibile come il soprannaturale che si vorrebbe considerare quale surrogato ersatz della sua determinazione spontanea ma insufficiente. Il paradosso del confluire in uno della grazia soprannaturale della libertà sarebbe quindi da leggere sullo sfondo del paradosso della presenza in noi di una libertà che è nostra e al tempo stesso ci è stata donata, o il che è lo stesso, della presenza in noi dell'archetipo della perfetta umanità senza che noi ne siamo gli autori. Il paradosso centrale della religione cristiana, che nella figura di Cristo Redentore ha il suo culmine, non sarebbe quindi come tale contrario alla ragione, ma espressione massima di quella tensione di immanenza e trascendenza che già caratterizza la struttura originaria della realtà umana. Riconoscere che tale paradosso non è risolvibile dalla ragione, ovvero che esso è tale proprio perché ci impone di tenere uniti due elementi che i nostri concetti non riescono a vedere come possono stare uniti, neppure nel caso che Dio volesse rivelarcelo, dice Kant, se per un verso è segno dei limiti della umana ragione, che Kant non si stanca di evidenziare anche in quest'opera, per altro verso è segno che può avere senso e verità per l'uomo aprire il cuore alla fiduciosa speranza in un dono capace, nel modo che Dio solo può conoscere, di sovrapporsi al nostro impegno senza distruggerlo o renderlo superfluo, bensì sanandolo e potenziandolo. Il che, secondo Kant, è sufficiente per offrire, nei limiti del possibile, quella giustificazione filosofica della speranza che era negli intenti dell'opera e che ancora oggi vale la pena di meditare. Ringrazio il professor Ferretti per questa puntuale analisi che dimostra come possa essere feconda, appunto, l'ermeneutica, anche se in questo caso ermeneutica dell'ermeneutica. Mi attrae molto quest'ultimo punto che lui mette in evidenza, paradosso di una libertà che pure ci è stata donata e che mi fa pensare a quell'altra parte che lui ha svolto circa la difficoltà di pensare tuttavia un uomo, il Cristo come... come dire, incarnazione, nella misura in cui se fosse questo non potrebbe essere seguito, non consentirebbe la sequela. È molto suggestivo questo discorso, penso ad alcune implicazioni. Mi sembra che qui si tenda a radicalizzare il senso della a radicalizzare fortemente il senso della trascendenza da una parte, e proprio perché la trascendenza si radicalizza è possibile un invio di una libertà che resta tale. Forse però, ecco, come in un dispositivo che curiosamente è abbastanza simile a questo, se ne parlava con alcuni amici a tavola, che è un dispositivo di tipo ebraico, in questo caso si pone il problema di verificare se libertà e responsabilità sono contemporanee, o se invece una libertà donata non costituisca un investimento di responsabilità che precede l'assunzione stessa della libertà, che è uno svolgimento che poi è vero è presente per esempio nell'etica levinasiana, ma era una mia personale suggestione. Lo ringrazio per questa sua veramente utile